questi 10 punti che sono contenuti nel documento finale di Parma indicano chiaramente alcuni aspetti importanti. Il primo, per quanto riguarda la finanziaria, che è il tema più imminente, perché come sappiamo il 30 settembre il governo dovrà presentare la sua proposta di finanziaria, già se ne parla molto, si sa di questi 24 miliardi di manovra, che è una manovra ingente, consideriamo che in media una finanziaria negli ultimi 10 anni è stata intorno ai 15 miliardi di euro, diciamo, quindi qui siamo quasi al doppio. Cosa ha detto il forum di Parma rispetto a questo? Innanzitutto c'è un secco no ad una manovra di tagli, di riduzioni di quella che è la spesa pubblica già pesantemente tagliata negli ultimi anni, ma anche un no secco a quella che è la riduzione delle tasse. Qui non si vuole dire che bisogna aumentare le tasse, però di sicuro bisogna ripristinare all'interno del Paese un principio che è quello della solidarietà fiscale e della progressività fiscale. Questo significa che chi più ha deve concorrere di più alla creazione di risorse che poi determinano la capacità di spesa pubblica di un Paese. E invece noi stiamo andando nella direzione opposta, quindi bisogna reintrodurre la tassa di successione e donazione, bisogna aumentare le aliquote fiscali per gli scaglioni di reddito più alti e quindi invertire la tendenza rispetto a questo, ma bisogna soprattutto cominciare ad attaccare le rendite e le speculazioni finanziarie. Questo perché, soprattutto perché nel nostro Paese c'è il problema della grossa evasione fiscale, soprattutto da parte delle imprese, e questo significa, come dire, cambiare questa modalità significa effettivamente far cambiare anche una cultura. Quello che è successo a Parma è ormai lo specchio di un sentimento, di una pratica che si va diffondendo ovunque, cioè quest'idea di costruire in modo partecipato, senza necessariamente cercare delle convergenze su tutto, delle proposte condivise. Quindi appunto si parla di modello partecipato, ormai se ne parla forse anche troppo, bisognerebbe praticarlo di più, ma in ogni caso è chiaro che siamo noi, cioè le associazioni e i movimenti, che sono in prima fila rispetto a questo. La partecipazione è stata molto ampia, perché abbiamo avuto ogni giorno almeno 300 persone ad ascoltare seminari anche molto tecnici, in cui si è parlato appunto di tassazione, di modelli di imposte, di modelli di welfare, di andamento della spesa pubblica e così via. Quindi un salto di qualità, diciamo così, per i movimenti, perché si passa da una generica e giusta critica, rivendicazione di diritti, ad una capacità di analisi e di proposizione molto molto avanzata. La partecipazione è un elemento fondamentale. Domani a Roma questo convegno che è organizzato dal Comune sullo sviluppo locale partecipato mi sembra interessante, perché dice da un punto di vista istituzionale e non dei movimenti qualcosa di molto simile, però, perché dice guardate che le politiche di sviluppo tradizionali non funzionano, lo stesso modello di sviluppo che esse perseguono non ci piace, c'è invece un modello che può essere costruito di sviluppo, poi possiamo escludere anche delle parole, che sia però armonico con ambiente e società e non indipendente da queste come purtroppo è stato finora, che però deve essere basato su un principio di partecipazione, perché soltanto se i cittadini possono dire la loro rispetto alle politiche di sviluppo, rispetto all'uso delle risorse pubbliche, rispetto alle priorità che la pubblica amministrazione si dà, allora siamo sicuri che diritti e ambiente non vengono violati.